può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. 18 e 7 minuti, buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati in una nuova serata insieme fino alle 20.30, 800 24 00 24, cominciate subito a prenotare il vostro intervento per commentare i fatti di giornata, i fatti dell'attualità d'agosto, ma già che ci siamo, noi ci siamo detti, ma Vittorio Sgarbi ha proposto di portare i bronzi di Riace a Expo, questo lo sanno tutti, ma perché proprio i bronzi, abbiamo pensato, e allora potremmo portare qualcos'altro, chiamate questa sera, voi cosa portereste a Expo a Milano per accogliere i turisti, non so, il dito medio di Cattelan per esempio, per far capire subito il benvenuto in Italia, oppure un pezzo di Pompei, tanto cade già a pezzi di suo, oppure qualcuno in redazione diceva il motore di una Ferrari, cioè il Made in Italy, il simbolo dell'Italia, una maglia di Balotelli. 800 24 00 24. Ma che ore, che non lo posso perdere, l'ultimo spettacolo, fine del mondo, immondo visione, diretta da San Pietro per l'occasione, la borsa sale, i maroni no, Ferri batte il record di autogol, e liste del giudizio universale, l'avevo trasmesso dai telegiornali, ma avete unificate poi sulla pagina 6, 6, 6. Ma prima però sul canale 9 ci sarà il terzo festival del dolore con la finale dei Casumani, meno meno mani che mai i puttani esitti. Ma lei sa bene che siamo nella terza guerra mondiale, ma a pezzi, ha capito, a capitoli, no? È un mondo in guerra dove si fanno queste crudeltà. C'è una aggressione ingiusta, soltanto posso dire che è lecito fermare l'aggressore ingiusto. Sottolineo il verbo fermare. Non dico bombardiare, fare la guerra, fermarlo. Finitevi la merce che di là non funziona. Ma dobbiamo avere memoria pure, eh? Quante volte sotto questa scusa di fermare l'aggressore ingiusto, le potenze si sono impradonati dei popoli e hanno fatto una vera guerra di conquista. Niente, non c'è niente da fare, se l'ha detto anche il Papa, Papa Francesco, allora vuol dire che Alessandro Di Battista non aveva tutti i torti quando ha detto che se tu vieni a casa mia a bombardarmi, allora io mi faccio esplodere con una cintura di esplosivo, e questo per capire le ragioni del terrorista. Se l'ha detto anche il Papa che insomma l'Occidente deve stare calmo a fare guerre, perché si finisce spesso per fare guerre di conquista, e questo naturalmente non va bene. Se l'ha detto il Papa, allora vuol dire che Di Battista non aveva detto una boiata. In cui per esempio Di Battista fa quel tipo di intervento, a quel punto viene fuori una reazione unanime, lui ha fatto un intervento terrorista e ha fatto un intervento di classica tradizione radicale e non violenta, perché dice dobbiamo promuovere a interlocutori gli assassini, altrimenti quelli che saranno sceglieranno l'assassinio o il suicidio. Il terrorista non lo sconfiggi mandando più droni, ma attenzione al termine scelto, ma elevandolo ad interlocutore. Elevandolo è il dialogo, ecco, è il dialogo. Questo è il punto, compito vero, difficile ma necessario, scrive Di Battista, altrimenti non si farà altro che far crescere il fenomeno. No, ma naturalmente non sono tutti d'accordo con il Papa, ammesso che il Papa insomma avesse letto la frase di Di Battista, no, probabilmente no, è un discorso complesso, però ammesso, non sono tutti d'accordo naturalmente, oggi sui giornali è pieno di commenti contro chi ce l'ha con l'Occidente, contro Di Battista. Io credo che Di Battista volesse solo fare un ragionamento di buon senso per una volta. Verini del PD. E quando Di Battista ha detto quelle cose folli, perché il terrorismo non si giustifica mai, ma lui ha quasi dato a quel terrorismo, che è un terrorismo fanatico, un terrorismo che vuole fare pulizia etnica, religiosa, che vuole usare quelle armi, ha quasi dato una giustificazione ideologica, come se fosse una ribellione usando mezzi assolutamente condannabili contro una gravissima ingiustizia, prepotenza internazionale. Non è così. Quello è fanatismo, e quel fanatismo, come ha detto Papa Bergoglio, va fermato. Oggi qualcuno ha scritto sui social network, ricordando una frase di Andreotti che io non conoscevo, che diceva così: se fossi nato in un campo profughi del Libano sarei un terrorista anch'io. E vabbè, giusto per citare Andreotti. Oggi conferenza stampa del nuovo allenatore della nazionale, Conte. Attenti a quei due, Tavecchio e Conte. Ho chiesto scusa. Al di là di questo, che contano sono i fatti. Ma io non vorrei neanche farle vedere le lettere che mi arrivano dall'Africa, lettere che mi chiedono di intervenire in mio favore. Medici, frati, civile, società territoriale di gente che ho aiutato. In questo momento io ho 3 figli in adozione, ho fatto una cooperativa per il pomodoro, ho fatto insieme all'Hôpital Saint-Jean de Dieu, i proprietari della clinica che c'è all'isola Tiberina, 2 ospedali in Africa. Ammetto che le parole possono anche essere diverse, ma che guardano la mia coscienza è tranquilla e serena. Io non ho mai pensato di offendere nessuno, io volevo difendere il nostro sistema. È arrivata la telefonata da parte del presidente di un top club, perché l'Italia rappresenta il top di un top club. Il programma lo prevedeva prima, non prevedeva Fiona May, ma prevedeva di fare una commissione per il recupero e per tante cose a favore degli extracomunitari. E queste sono le domande che lo stesso Conte ha definito agghiaccianti di Crosetti, che ce l'ha su con Tavecchia e con questo nuovo vecchio corso della Nazionale, le domande del giornalista di Repubblica proprio a Conte. Antonio, 3 domande secche. La prima è questa: al tempo della tua squalifica tu eri stato molto duro nei confronti della Federcalcio, avevi addirittura parlato di paura. Vorrei sapere se è passata adesso che la Federcalcio è il tuo datore di lavoro. Seconda domanda: se temi un'ingerenza dello sponsor tecnico, che è sponsor anche di alcuni giocatori convocabili. E la terza: vorrei sapere quanti sono gli scudetti della Juve secondo te? 30 o 30? Quanti sono gli scudetti della Juve? Se segui la contabilità della Federcalcio, che ti stipendio della Juve? Grazie. Sono 3 domande agghiaccianti. Sì, ma poi 3 domande. Infatti, una cosa chiedo. Aspettiamo dal Trentino notizie sulla sorte dell'orsa e dei suoi cuccioli. Danica, questo ne abbiamo parlato molto anche ieri sera. Questo è lo spot di Licia Colò, fresca di mancato rinnovo per il suo programma naturalista sulla Rai. Lo spot Io sto con Danica, Licia Colò. Sta di fatto che non si può condannare a morte nessun essere vivente che istintivamente difende i suoi piccoli. Questo animale, questa mamma orsa di 18 anni, è stata portata nel nostro paese nel 2000 e adesso, dopo 14 anni, rischia di essere abbattuta. Non è accettabile, fatemi sentire. Qualcuno dice che il Trentino sta facendo una brutta figura a livello mondiale, a livello internazionale, perché l'hashtag su Twitter Io sto con Danica starebbe impazzando, e ci sono commenti anche a livello internazionale. Compagni avanti, gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso il fiore, il petto c'è fiorito. E buonasera a Vauro Senesi. Buonasera, ciao, grazie Vauro. Di questa musica introduttiva. Senti, che cos'è esattamente? Perché mi avevano detto l'internazionale, ma è l'internazionale questa? Io ho la memoria un po' arrugginita. È grave, si vede, se la sono scordata in molti, devo dire. però cos'è? L'internazionale, garantisco. Sì, ma c'era un tempo nel quale bastava fare una gita in pullman, almeno forse una certa parte degli italiani, che a un certo punto scattavano anche questi cori, queste canzoni che sapevano di un passato. Adesso non la canta più nessuno, o sì? Io ce l'ho nella suoneria del telefono, quindi l'ho sentita poco fa quando mi avete chiamato. Ah, quindi non abbiamo fatto niente di inatteso per te. Vauro, cioè, tu ti senti ancora un comunista, si può dire, sì? Si può dire tranquillamente, poi... No, dire si può dire, insomma... Sono un comunista, certamente, non vedo il motivo di non esserlo, sinceramente. Insomma, io sono convintissimo che nella storia del socialismo, del comunismo realizzato, ci sono errori ed orrori, ma come sono convinto di questo? Sono convinto che nella storia delle cosiddette società liberiste o liberali, chiamiamole come vogliamo, quelle che stiamo vivendo, gli orrori, se non sono altrettanti, sono superiori, insomma, no? Basti pensare a interi continenti condannati alla fame, basti pensare anche alla crisi nei nostri stessi paesi, nel sud dell'Europa, basti pensare al panorama di guerre che ci circonda, e potrei continuare, insomma, in questa lista del terrore, appunto. Ecco, a proposito di terrore, noi partendo abbiamo fatto un parallelismo forse un po' azzardato tra le parole del Papa sul fatto, ho sentito tutti i telegiornali, della terza guerra mondiale a pezzetti, soprattutto il fatto di dire è giusto fermare un aggressore violento, ma non facendo guerre, perché si rischiano di fare, tante volte l'Occidente le ha fatte guerre di conquista. Un parallelismo tra questo e quello che ha detto il povero Di Battista qualche giorno fa, povero a questo punto perché è stato assalito da tutti, perché fiancheggia i terroristi, è amico dei terroristi, semplicemente perché ha detto cerchiamo di capire da dove nasce questo terrore. Forse c'è chi non ha nessun interesse a capire, perché basterebbe conoscere, dico un po', almeno per sommi capi, la storia recente per capire di dove nasce il terrore. Basterebbe capire chi ha finanziato Al-Qaeda, basterebbe capire chi ha inventato e finanziato e armato i talebani, basterebbe capire anche chi ha creato il contesto, la situazione di devastazione economica, politica, fisica, morale, le guerre che abbiamo fatto in Iraq, in Libia, eccetera, che hanno creato tutti i presupposti per quest'altro orrore nascente che è l'esercito dell'ISIS. Ma quindi secondo te anche questo nuovo esercito dell'ISIS che viene, credo aver capito, dalla Siria, tu tra l'altro hai viaggiato, sei stato anche sicuramente in Medio Oriente, non so se sei stato in Iraq, sei stato? Sì, io ho fatto, purtroppo mi sono fatto tutta la guerra in Iraq, ero a Baghdad prima degli americani. È vero, Vauro. Scusa, questo non me la ricordavo. No, bisogna dare anche il merito a chi va, perché ancora a cercare di vedere quello che succede. E come ero a Gaza prima che Israele, il governo israeliano, mi mettesse nella blacklist dei giornalisti non ammessi in Israele e quindi di conseguenza in Palestina, visto perché, che la Palestina è ostaggio di Israele. Perché qualcuno invece vede in questa avanzata dell'ISIS proprio una politica, questa idea sicuramente un po' folle del califfato, il fatto che loro o vi convertite o vi uccidiamo, cioè un'avanzata che non sarebbe più neanche una reazione a qualche cosa. Io mi stupisco un po', no? Perché io non ho nessuna simpatia ovviamente per l'ISIS né per le dottrine che propugna, tantomeno per come le propugna. Ma noi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto le guerre per esportare la democrazia, non le abbiamo fatte in Afghanistan e quel paese è diventato un mattatoio, le abbiamo fatte in Iraq, quel paese è diventato un mattatoio. Non abbiamo fatto la stessa politica dell'ISIS e con armi ad alto livello tecnologico e con massacri altrettanto brutali. Io non credo che se una persona, un uomo, una donna, un bambino muore per una raffica di Kalashnikov dell'ISIS sia una cosa più grave che se muore per la scheggia di un missile intelligente o per una cluster bomb delle tante che abbiamo sganciato in giro per il mondo. Cioè, vorrei che qualcuno mi dicesse qual è la differenza, se c'è una graduatoria del terrore. Io credo che la guerra sia il terrore e il terrore sia la guerra. sono sinonimi, come ho cercato questo, di dire. Su questo però sei più a sinistra anche del Papa. Il Papa ha detto è giusto fermare però questi violenti. Ma è ovvio che è giusto fermarli, ma intanto il primo modo per fermarli è creare le condizioni perché non partano, perché non comincino, perché non esistino. No, noi abbiamo fatto guerre in tutto il Medio Oriente, abbiamo destabilizzato tutta quell'area a suon di bombe, di bombardamenti, di strage e di massacri, a cui ho assistito, per cui nessuno mi può dire che sto mentendo. Ecco. E oltretutto da un osservatorio anche molto particolare, al quale sono grato, che è quello degli ospedali di emergency, l'organizzazione di Sinostra. È vero che sull'ISIS ha detto anche Hillary Clinton, volendo forse dare una bordata a Obama, o politica fallimentare in Siria, in sostanza ha detto non che li avessero appoggiati, ma che li avessero fatti nascere. Allora, se si va, tutti questi eserciti o formazioni definite terroristiche quando serve, no? Perché poi questa definizione varia. Io ricordo che, per esempio, i mujahideen afghani erano definiti combattenti per la libertà quando venivano finanziati, pagati e armati fino ai denti per combattere contro l'Unione Sovietica. Dopodiché sono diventati dei tagliagola, ma sono gli stessi. E lo stesso giro di armi, che è sempre più potente, sempre più forte, se uno va a vedere, ma di dove vengono tutti questi carri armati, missili, bazooka, questo armamento pesante di cui l'ISIS sta? Vogliamo tornare alla memoria quando abbiamo armato appunto i talebani o l'UCK in Kosovo? C'è un bellissimo proverbio afghano. Sì. Che dice la tigre si può cavalcare, ma però la tigre va dove vuole. Mi sembra che racconti la storia dell'ultimo secolo e mezzo. Ma cosa dovrebbe fare a questo punto l'Occidente, insomma l'America, l'Italia in Iraq? Nulla secondo te? Credo che abbia già fatto troppo, no? Se non sbaglio. Quel paese doveva diventare, non si sa per quale miracolo dei bombardamenti, un paese democratico è sotto gli occhi di tutti un mattatoio, anzi non è sotto gli occhi di tutti, perché naturalmente i riflettori si spengono quando ci sono le conseguenze delle guerre che facciamo, che propugniamo e che addirittura definiamo umanitarie. In Iraq, ancora prima dell'ISIS, c'è una strage quotidiana, c'è un'autobomba al giorno, a dire poco, e la notizia a noi arriva a volte nei sottotitoli che scorrono sotto le ultime cazzate dette da Renzi nei TG. Questa è la situazione che stiamo così, noi. Un colpettino a Renzi bisogna darlo ogni tanto. Noi siamo terroristi, sì. Abbiamo esportato terrore in mezzo mondo, stiamo appoggiando governi terroristi come quello ucraino, benissimo, li stiamo armando, ora armeremo anche Peshmerga, perché a noi interessa distribuire e vendere armi. Ricordo che l'Italia, il nostro paese così democratico e così simpaticamente rappresentato dal giovane rottamatore Premier Renzi, l'industria delle armi non l'ha rottamata, perché l'Italia è fra i più grandi fornitori di armi ad Israele. Beh, sono tante le cose che Renzi non ha rottamato, che aveva, alcune le aveva promesse tante, e alcune neanche quelle. Allora, quando mi dicono terrorismo è uccidere gli innocenti, bene, quanti bambini stanno morendo e sono morti a Gaza? Molti dei quali con le armi che noi abbiamo fornito, sì, al governo terrorista di Israele. Però su Gaza e su Israele, perché molti adesso dicono, meno commenti su social network, nei blog, è allora di finirla di tifare per una parte o per l'altra, perché così non si tratta di tifare, si tratta di avere un minimo di buonsenso. Qui abbiamo una potenza che è una potenza nucleare, ricordo, illegale e nucleare. Perché illegalmente una potenza, a parte che per me è illegale qualsiasi potenza nucleare, ma parlando di diritto internazionale, Israele non dovrebbe essere dotato di atomica. Stiamo parlando della più grossa potenza militare di tutta l'area, fra le più grandi del mondo. Stiamo parlando di un paese che ha aviazione, marina, missili, cluster bomb, bombe con i razzi, bombe al fosforo, quelle che sono state usate sempre a Gaza durante l'operazione Piombo Fuso. L'avversario di questo paese è una striscia di terra fra le più densamente popolate al mondo e si deve ancora sentire la cazzata che questi si fanno scudo dei bambini. Ma dove possono fuggire? Che non c'è lo spazio fisico, il territorio per fuggire. È un lager, a cielo aperto, dove ogni tanto prendono e sganciano bombe, facendo massacri. Come si può essere equidistanti di fronte a un conflitto che vede una parte preponderante con grandi legami internazionali, con armamenti dei più moderni, dei più tecnologici e dei più micidiali, è una parte che di fatto subisce questa aggressione perché non ha... vogliamo confrontare le bombe al fosforo con i razzi Qassam? Vogliamo scherzare veramente? Beh, sono allora bombe anche quelle, però se arrivassero a destinazione potrebbero fare vittime anche quelle. Però per la miseria un po' di realismo bisognerà pure averlo, no? È come se io vedessi un bambino che fa cazzotti con un campione di fucilato. Non mi metterei mai a tifare per il campione di fucilato, mi sembrerebbe grottesco. Noi invece questo facciamo. Noi questo stiamo facendo. Io non sto dicendo che i Qassam sono dei giocattoli o delle cose carine. Io sto dicendo che quando si dà la parola alle armi, purtroppo sono le armi che parlano, e le armi non hanno mai costruito pace. Hanno sempre costruito guerre. Le armi sono concepite, fatte, inventate per uccidere. Ah, su questo non c'è dubbio. Incluso i Qassam, ci mancherebbe altro. Però ribadisco che non si può, fra due contendenti, chiamiamoli così, due avversari, con mezzi così dispari e con ragioni anche così. Però su Gaza e Israele non c'è nessuno nel mondo che abbia l'autorevolezza che in passato si è appena sfiorata con Clinton o in altri momenti per fare una pace veramente. Allora c'è stato Rabin, premio Nobel per la pace, no? Ecco, Rabin è stato ucciso da un integralista israeliano. O sbaglio, non credo che sia stato colpito da un Qassam, no? No, beh, certo, questa è la morte di Rabin. Oltretutto, Rabin, io ero a Gaza in quel periodo sotto l'occupazione israeliana, fu il leader israeliano che lanciò, e non era una metafora, lo slogan "rompiamo le braccia all'intifada", perché a quel tempo l'intifada era la famosa battaglia delle pietre, erano i ragazzini che lanciavano. Ecco, io le ho viste spaccare le braccia a quei ragazzini. Nel senso letterale, non metaforico del termine, i militari israeliani nella casa occupata erano dotati di bastoni chiodati, cioè ferrati con un tondello di ferro in cima, acchiappavano i ragazzini che tiravano sassi, sto parlando di bambini di 10-11 anni, li tenevano fermo il braccio e con quel bastone li spaccavano. Senti, Vauro, noi stiamo parlando di questo, poi ci meravigliamo, e io ti sto parlando dell'88, della prima intifada, dove non esistevano, guarda caso, kamikaze, non ce n'era mai stato neanche uno. E però poi noi, a distanza di tutti questi anni, ci meravigliamo se un popolo che ha subito soltanto vessazioni, umiliazioni, assassini, oppressione, questo popolo poi non vede altra soluzione, e io credo che non sia, ripeto, quella la soluzione, ma che non vede altra soluzione dettata dalla propria stessa disperazione di ricorrere alla violenza, anche quando perde, ovviamente, sul piano del confronto violento, perché ribadisco, sfida una potenza militare delle più grandi del mondo. Volevo chiederti una cosa per chiudere in leggerezza sulle barzellette contro i gay allegate al settimanale Visto, però non so se abbiamo tempo, perché tu hai saputo di questa cosa? Ho letto una cosa, non è che la cosa mi interessi. Però tu hai fatto barzellette su tutto, no? Quindi non è che ci si può scandalizzare su questo. Ma io ripeto, credo che ci siano cose di cui ci dovremmo scandalizzare, stiamo parlando proprio ecco, di quelle, e queste no. Non ci stiamo scandalizzando affatto. Io mi ricordo questo paese meraviglioso alla vigilia della guerra in Iraq, mobilitato per intero per la pace. C'erano bandiere arcobaleno a ogni finestra di questo paese. Io vorrei che questo paese ritrovasse quella volontà, ritrovasse quella capacità di solidarietà, di passione e di intelligenza. Va bene, grazie Vauro, buona estate, buona serata, ciao. Luciano che chiama sempre da Torino, buonasera. Buonasera, sono in onda. È in onda? Molto bene, avrei preferito che ci fosse rimasto ancora Vauro, di cui mi piacciono le barzellette, e soprattutto che si dichiara comunista convinto. Sì. Ecco, volevo dirci questo, visto che mi avete chiamato per il motivo, cioè cosa mettereste alla Expo? Ecco, io metterei la Camusso come esponente, la maggiore artefice del disastro italiano che stiamo vivendo tutti. Cioè lei vuole affossare subito l'Expo, cioè arrivare con un simbolo per lei negativo, magari per altri no. Appunto, voglio fare che mettere la Camusso all'ingresso dell'Expo. Prendiamo come... anche questa segnalazione, la mettiamo in lista, poi vediamo chi vince. Però noi vogliamo qualcosa che almeno nelle vostre intenzioni fosse un simbolo positivo, ha capito? Ah, mi fa piacere, ma visto che intervistate tutti i comunisti, sì, che si dichiarano comunisti... Che ma no, abbiamo intervistato Mauro, che vuol dire? Tutti appunto, comunisti. Ma si è dichiarato comunista, come sì, una grossa fetta di comunisti italiani che votano comunisti e sono quelli che diventeranno servi della gleba comunista. Ecco, che bisogna essere proprio deficienti completi per votare comunista, per diventare schiavi del comunismo. Dato che il comunismo è morto in tutti i paesi, sì, del mondo, noi siamo il terzo paese al mondo dopo la Corea del Nord e Cuba che sta diventando, che è comunista. Ma non è comunista l'Italia, ma cosa sta dicendo Luciano? Vabbè. Ma cosa sta dicendo? Che cosa stiamo diventando? Stiamo non diventando peggio che la Corea del Nord. Sì. Ecco. Ma perché è... stiamo diventando comunisti? Perché c'è la Camusso. La Camusso fa il segretario della CGIL e ci sono altri che fanno altri mestieri. Mm. Esatto, ma dato che abbiamo dal Presidente della Repubblica Napoli, sì, vetero comunista, e questo è innegabile, abbiamo un presidente del consiglio comunista, abbiamo magistratura democratica, comunista è straordinario Luciano, no, è del PD, il PD è del PD, l'evoluzione del comunismo, punto. Ma fa lo scout cattolico, gli piace De Gasperi, che è comunista, va bene Luciano. Ma non diciamo sempre, sì, stupidaggini quando va bene, l'Italia ha ragione Luciano, è un paese comunista, quindi all'Expo portiamo Susanna Camusso, va bene, questo è il suo messaggio, lo prendiamo così. Dario da Torino. Buonasera, tutti da Torino chiamano stasera, come mai? Senta, io ho sentito l'intervento di Vauro e mi è piaciuto moltissimo, sì, perché sono state dette finalmente e molti hanno sentito cose come si leggono anche a volte spesso su internet che spesso e volentieri non vengono dette così bene, e soprattutto volevo ribadire il concetto che di solito succede che terrorista viene tacciato chi difende il proprio territorio, le proprie cose, insomma, il proprio terreno, ecco, la propria vita, come succede per esempio con i palestinesi che vengono visti come terroristi, mentre gli israeliani sono quelli che si difendono di solito. Tutto qua, ecco, voglio far riflettere su questo aspetto, ecco, che molte volte la parola terrorista viene assegnata a chi spesso difende con poche armi, con poche cose, il proprio diritto alla vita. Grazie Dario, grazie, buona serata. Abbiamo Ottavio. Ci sente Ottavio? Sì, sento benissimo. Da dove ci chiama? Da Bari. Prego. Io per l'Expo presenterei un atto giudiziario iniziato 30 anni fa e non ancora concluso. Oppure l'elenco delle cause davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo per la lunghezza, la durata dei giudizi. Quello è il nostro pedigree, il nostro biglietto da visita. Mm. Anche ma lei con un simbolo negativo però, eh? È così. Ognuno c'ha il suo biglietto da visita. Dice il biglietto da visita dell'Italia è questo, cioè la lentezza nella nostra giustizia. E la incertezza del giudizio, della legge, della giustizia, la grande incertezza. Va bene, ma se proprio un simbolo positivo non ce la facciamo con gli ascoltatori stasera, per forza dobbiamo darci la zappa sui piedi. E va bene anche questo. Accettiamo tutto. Francesco, buonasera da Milano. Buonasera, eccomi qua. Prego. Io invece ribadisco che i bronzi vanno bene, perché è una bella vista i bronzi, che sono culturalmente abbastanza intensi come visione. Però per mettere d'accordo tutti quanti, sì, si potrebbe fare una bellissima copia di entrambi, un ingesso in resina, come hanno fatto, non so, col David lì a Firenze, che si stava rovinando, messo fuori, hanno fatto l'originale messo dentro, hanno fatto una bellissima copia, che tanto arrivano i turisti. Chi è che si ricorda che quella lì è una copia? Chi è che distingue la copia? Lei ha ragione. Certo, fa differenza sapere che uno è di fronte a una copia o all'originale, però le dice in fondo. Sì, però adesso chi è che si ricorda? Stai a badare il capello. Viene ugualmente ammirato, più né meno, come se fosse l'originale. Va bene, Dario, in effetti questa è una proposta che è stata fatta, credo, dal insomma, la persona che ha curato, il restauratore che ha curato il restauro dei bronzi di Riace, ha proposto di mandare delle copie. Poi c'è chi ha proposto di mandare uno solo dei due. Noi stasera vi stiamo chiedendo delle cose alternative. Va bene anche questa. Facciamo Carlo da Bologna. Buonasera. Sì, buonasera. Io vorrei parlare dei cattivi maestri. Sì. E stasera ne abbiamo avuto uno in diretta. E lei ieri ha citato Di Battista, che è un altro cattivo maestro. Quando si parla di terrorismo, bisogna stare attenti a quello che si dice. Non si può prendere le parti dei terroristi che sepolgono vivi dei bambini e delle donne e violentano ripetutamente giovani per poi venderle come schiavi. Quello non è terrorismo, mi permetta. Siamo di fronte a crimini talmente alti. Guardi, bisogna stare attenti anche a quello che si dice, però, perché le informazioni, mi scusi lei un attimo, perché quello che lei ha detto, sepolti vivi, donne violentate, sono fantasie, secondo lei. No, non sono fantasie, non sono fantasie. Attenzione, ci sono pochi inviati da quelle parti, ci sono. Dobbiamo. Perché si ricordi le armi di distruzione di massa? Andiamo perché ci sono le armi di distruzione di massa, poi non si sono trovate. Quindi stiamo attenti anche noi a quello che diciamo, no? O no? No, beh, o ci fidiamo di quello che abbiamo letto, non so, su un blog da parte di uno che non c'è mai stato in Iraq? Lo stanno dicendo da giorni, sulla stampa mondiale lo stanno dicendo da giorni, e i cattivi maestri si dimenticano di queste cose, dove l'unica cosa da fare è pregare Dio che queste cose non avvengano più. Chi li difende è terrorista come loro, anzi non è un terrorista, è un criminale di guerra, e come tale va eliminato, come hanno fatto con i nazisti a Norimberga. È la stessa cosa. Cioè lei vorrebbe eliminare Vauro come un criminale nazista? Io sto dicendo che chi difende quella gente è uguale a un criminale, è la stessa cosa. È il cattivo maestro che difende lo sterminio degli ebrei, lo sterminio dei rom, lo sterminio di tutte le minoranze. Vauro, Di Battista e anche chi non condanna questi sta dalla loro parte. Perché sta dalla parte? Vauro non ha detto che gli sta simpatico l'ISIS, l'ha detto. No, ma scusi, guarda. Non ha detto questo. No. Cioè, per lei solo per il fatto che prende le distanze, diciamo, dalla guerra, basta per fare di Vauro un criminale nazista. Sì, dottor Maurizi, per cortesia, non ha preso le distanze. Vauro lo conosciamo bene. Vauro sta dalla parte di coloro che si ribellano a una certa altra parte. Lui non ha ancora capito che gli jihadisti sono la peggior specie umana oggi sulla terra, perché stanno facendo delle cose che sono veramente al limite dell'incredibile. Ma qui siamo di fronte a un progetto che non è terroristico. Questi vogliono portare... Ma guardi, sul fatto che stiano commettendo degli atti orribili probabilmente siamo anche d'accordo, ma sul fatto che fino a qualche mese fa, quando erano in Siria, erano tollerati e addirittura sostenuti in qualche modo dall'America, questo riguarda noi, il nostro ruolo, non loro, di cui nessuno qui, almeno non io, ha intenzione di difenderli, ha capito? I cattivi maestri ci hanno... Va bene, grazie, abbiamo capito, buona serata. Bonito, todo me parece bonito. La mar, la mañana, la casa, la samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita. E salutiamo Achille Bonito Oliva, buonasera. Grazie dell'omaggio musicale. Vabbè, stasera ci stiamo dedicando musiche a tutti. Questa, tra l'altro, credo che sia anche la musica scelta per una parte della sigla del suo programma Fuori quadro sì. Quindi grazie, no, grazie. Non potevamo non fare questo omaggio al grande critico d'arte. Chiamato a Roma a valutare chi può dipingere a Piazza Navona. No, guardi, vorrei cominciare. Ancora non chiamato. Vorrei cominciare con una, ormai è diventato con una smentita, un adagio, partendo dalla politica, a mia insaputa. Come Scajola. Nel senso che io non sono stato contattato da nessuno. È una candidatura a mia insaputa. Sì. Che esista un problema a Piazza Navona, a Piazza del Popolo, a Trinità dei Monti, a Castel Sant'Angelo, questo è indubbio. Perché c'è un'invasione, un'occupazione di suolo pubblico da parte di quelli che io non considero artisti, ma artieri. Artieri. Qual è la differenza? Gli artisti sono quelli che producono un massaggio del muscolo atrofizzato, della sensibilità collettiva, attraverso opere che introducono una novità, una differenza, una visione personale. Gli artieri sono quelli che usano le mani per confermare una tradizione, sono degli artigiani. D'altra parte, artigiani che significa? Lo dice la parola stessa, arte già nata, artigianato. Artigianato. Una presa di posizione così contro l'artigianato non me l'aspettavo. Io non ho nulla contro l'artigianato, ho capito. Io sono un critico d'arte. Certo. Voglio dire che l'artigianato è una conferma di una tradizione, sì, è manuale. E allora è paradossale che il sindaco abbia reso pedonale i fori imperiali e non renda pedonabile Piazza Navona, Trinità dei Monti e Piazza del Popolo, dove si inciampa ogni momento in un cavalletto o in uno spazio occupato indebitamente anche da tavolini e tavoli e sedie dei ristoranti. Da questi artieri, oltre che dai tavolini dei ristoranti. No, artieri e commercianti. Tutti e due, però i tavolini dei commercianti dei ristoranti credo che il sindaco ci stia mettendo mano, c'è stata una zuffa quest'estate, un po' di casotto, però adesso credo, non so, mi dica lei che sta a Roma, la situazione dovrebbe essere sotto controllo. Io voglio che si trovi una soluzione, così come deve trovarsi una soluzione anche per quanto riguarda questo. Però scusi un attimo, diciamo prima la notizia, perché lei giustamente ha smentito, non è stato ancora contattato. La notizia è questa. Nessuno. La notizia è questa, che c'è sui giornali di oggi. Chiede Bonito Oliva che piacerebbe alle persone del Comune di Roma che stanno studiando questa soluzione, cioè la soluzione qual è? Creare un filtro, una commissione, qualcuno che valuti chi ha i titoli, addirittura un test di pittura per stare a Piazza Navona. Ora, in effetti uno non ci pensa quando va in giro a fare il turista, però è chiaro che ci sono quelli che fanno le caricature, ci sono quelli che dipingono. E però non è il critico d'arte che se ne deve occupare, perché io mi occupo di arte contemporanea. Però allora mi dica, se la chiamassero lei quindi non accetterebbe? Io discuterei con gli addetti ai lavori del comune, perché una soluzione va trovata e deve essere una soluzione di rispetto per queste persone che sopravvivono attraverso questo lavoro, ma dall'altra parte cercando di evitare confusione, in quanto Roma è il più grande museo all'aperto che esista al mondo, dove c'è Bernini, Borromini e altro, e né i turisti né i cittadini ne possono soffrire totalmente, in quanto c'è questa occupazione artigianale di spazi. Ma se fosse per lei, però mi spieghi un attimo, per esempio quelli che fanno le caricature, che non sono artisti sicuramente, oddio, magari c'è qualcuno anche molto bravo, però fanno quella cosa lì, che non è arte, è un gioco. Li lascerebbero? Io li chiamo artieri con rispetto, non artisti. Ma li lascerebbe o no quelli che fanno le caricature? Dove? A Piazza Navona. Io francamente lì già proporrei una grandissima selezione e poi troverei degli spazi adeguati. Francamente non si capisce perché proprio Piazza Navona e Piazza del Popolo debbano essere luoghi occupati indebitamente in nome di una tradizione che non è manco italiana ma è francese. A Montmartre, a Montparnasse, prima i pittori en plein air all'aria aperta dipingevano ed esponevano anche all'aria aperta. Qui questi sono soggetti, bravissime persone che ripetono artigianalmente un qualcosa che già è frutto di una scoperta linguistica, di una iconografia, perciò dico artigianato e vuol dire anche arte già non solo nata ma anche già nota, già conosciuta da tutti, quindi non è nemmeno uno stimolo, un qualcosa che incentivi, non è arte pubblica. No, è vero che spesso ci si imbatte in cose anche di basso livello, sicuramente. Sì. È vero che in molte città ci sono regolamenti che prevedono un filtro per gli artisti di strada, per chi si vuole esibire, ammesso che poi questi regolamenti si riesca a farli rispettare, perché poi anche questo è un altro problema. Ma l'arte di strada, limitare l'arte di strada da un punto di vista anche proprio così concettuale, ha senso? Oppure proprio sul perché per strada dovrebbe essere libera? Un'arte, mi scusi, sul piano concettuale, come dice lei, infatti l'arte, come dice Leonardo da Vinci, è cosa mentale, quindi ha a che fare anche con un progetto. Esiste oggi un'arte pubblica che si chiama anche street art, artisti che fanno irruzione sui grandi muri, producono delle immagini e creano delle sorprese. In questo caso si tratta invece di soggetti quali occupano uno spazio, ma scusi, c'è Porta Portese, c'è Via Sannio, cioè andate lì piuttosto che a Piazza Navona. No, non vengo andare, cioè, lì, ogni luogo deve avere la sua giusta dimensione. Intanto tutti debbono sopravvivere, ma non utilizziamo argomenti patetici come fanno i commercianti che per invadere gli spazi cominciano subito a dire che c'è un problema, che poi devono licenziare il personale che lavora. Perciò dico, secondo me va affrontato con umanità e con rigore la cosa. Quindi, per esempio, anche distinguendo i luoghi, per cui magari gli artieri possono andare a Porta Portese, al Mercatino, però nei luoghi d'eccellenza della capitale di Roma, lei ci metterebbe artisti di qualità, magari anche artisti concettuali. Ma perché li può mettere degli artisti quando già ci sono le opere d'arte? C'è Bernini, c'è Borromini. Ma quindi li toglierebbe proprio questi pittori? Non ho capito. Li toglierebbe proprio i pittori da Piazza Navona, lei? Io, per quanto mi riguarda, sarei per una soluzione radicale, ma da cittadino. Ma radicale quanto radicale? Come? Cioè togliere i pittori? Io toglierei i pittori. Oh, ecco, questo non avevamo capito. Però il fatto... Ma come non sarà? Avete così chiaro per quello che le ho detto, la differenza tra artisti e artisti, sono un critico d'arte e non me ne posso occupare. Ammesso, ma se me ne occupassi... Ma perché non ci potrebbe essere un artista vero che vuole andare a Piazza Navona? A comprare il gelato, ai tre scalini. Come ma no? Scusi, l'ha detto lei, gli artisti, gli impressionisti francesi che dipingevano en plein air. Adesso passa un artista straordinario, si mette a Piazza Navona e non... adesso non va più di moda dipingere all'aria aperta? Ma non è, no, perché intanto gli impressionisti hanno come dire, ha migliorato l'arte contemporanea a metà dell'Ottocento. L'arte procede, è il movimento eccellente della fantasia. In questo caso invece la fantasia è bloccata su degli stereotipi che vengono ricopiati, riprodotti con un'iconografia che non sorprende più nessuno. Infatti a guardare i quadri che vengono fatti in quelle situazioni non c'è niente di artisticamente rilevante. Può essere un passatempo per il turista, può essere un passatempo. Dei luoghi adeguati per loro, tutto qua, senza naturalmente, come dire, soluzioni che siano crudeli e spietate. Senta, la stessa cosa vale per tanti altri problemi, come l'occupazione del valle, dove va rispettato l'occupazione, in quanto da una parte questi giovani hanno dimostrato anche capacità di autogestione, e dall'altra parte rispettare le istituzioni in quanto il teatro è di proprietà comunale. Allora trovare una mistura, una sintesi tra questi impulsi autogestionali e anche una gestione amministrativa adeguata. Gliela posso fare una domanda anche sui bronzi di Riace, senza che mi butta sul telefono? Basta che non mi chiedi un prestito, puoi chiedermi tutto. No, il prestito no. I bronzi, perché è una proposta di Sgarbi, lei ha avuto anche una causa con Sgarbi, adesso... L'ho vinta, Ecco, e quanto ha preso? È andata anche in Cassazione, e ho detto già a Sgarbi che... come dire, che destinerò tutto agli orfani, io sono di orfano di padre e di madre, quindi me li prendo. Vabbè, ma non solo a lei o anche ad altri orfani, cioè le dà veramente in beneficenza sti soldi? Ma è ovvio. Sì. La questione dei bronzi, noi stasera stiamo chiedendo agli ascoltatori quale altro simbolo porterebbero ad Expo. Lei porterebbe i bronzi intanto o qualcos'altro o non porterebbe nulla? Allora, per quanto mi riguarda, ritengo che l'Expo, che è sempre il segno di una, come dire, di un abbraccio universale, dove ognuno è il luogo che ospita che cosa? Un valore, la coesistenza delle differenze, e quindi è giusto che ognuno dia la propria identità anche attraverso l'arte. Ma dico Milano, che è una città, come diceva Totò, capitale morale d'Italia, no? A suo tempo, ma nel senso buono, perché è una città altamente produttiva, credo che abbia delle eccellenze storiche a partire dal Cenacolo di Leonardo e altri capolavori, oltre che avere un'architettura straordinaria che Piazza del Duomo, eccetera. Per cui io sarei invece per guardare al futuro e proporrei sempre delle opere che possono essere spostate, ma legate anche alla contemporaneità. I bronzi sono di 3.000 anni fa. Per evitare di fare un expo retro, è sempre una volta che siamo con le spalle rivolte al futuro e guardando il passato. A proposito del Piazza del Duomo, gli alberi a Piazza del Duomo le piacciono? Hanno messo gli alberi? Da quando? Adesso li stanno mettendo, proprio per Expo. Lo vedi, a mia insaputa. A sua insaputa. Anche questo. Perché lei ha detto una piazza architettonicamente meravigliosa. La facciata al Duomo, sì, allo stile gotico, diciamo che è un ricamo. Beh, nulla questio sugli alberi in fondo alla piazza. Questo... Ma ci possono essere anche gli alberi, io non li ho visti, quindi quando li vedrò posso giudicare. Ma dico, l'arte può coesistere con tutto, quindi questa è la cosa importante. Non esiste, in ogni caso, niente che non possa essere anche, come dire, messo in rapporto, in dialettica. E per questo dico che anche le opere possono essere trasportate. Quindi, ma un simbolo che potrebbe rappresentare tutto questo, cioè il futuro, Milano, il design, l'architettura, eccetera, che potrebbe essere valorizzato in quel contesto, le viene in mente qualcosa? Ma sì, io per esempio avrei, e non sono uno che se ne è occupato, ma avrei fatto una grandissima mostra sul futurismo. Il movimento per eccellenza dell'arte delle avanguardie è che appunto guardava al futuro utilizzando anche il passato, l'arte, anche quella contemporanea, progetta anche il passato perché ci fa rivedere quello che è già avvenuto con una temporalità e una contemplazione diversa. Ecco, avrei fatto perché il futurismo comprende il design, l'architettura, la moda, tutto. Marinetti, il più grande artista del futurismo, ha fatto i manifesti in cui ha estetizzato ogni cosa. C'è un manifesto sulla radio, sulle donne, c'è un manifesto sulla moda, sulla scultura, sulla pittura, su tutto. Vabbè, insomma, qualcosa sul futurismo Marinetti, e questa è la proposta di Achille Bonitolivo. Grazie, buona estate, buona serata. A lei, buon lavoro. Grazie, giornale radio, a tra poco. L'attualità, anche d'estate. Che ore, scusa, ma che ore, che non lo posso perdere, l'ultimo spettacolo. Fine del mondo, immondo, visione diretta da San Pietro per l'occasione. La borsa sale, i marroni no, Ferri batte il record di autogol. C'è una aggressione ingiusta, soltanto posso dire che è lecito fermare l'aggressore ingiusto. Sottolineo il verbo fermare. Non dico bombardare, fare la guerra, fermarlo. Niente, niente, ma tu giri più leggero. Ma dobbiamo avere memoria pure, Quante volte sotto questa scusa di fermare l'aggressore ingiusto, le potenze si sono impradonati dei popoli e hanno fatto una vera guerra di conquista. La guerra di conquista, attenzione a fare le guerre di conquista. Il Papa che parlava dell'Iraq, se pensate che Alessandro Di Battista, Movimento 5 Stelle, Vauro siano cattivi maestri, perché Vauro più di Di Battista, ma lo stesso Di Battista, Pannella, che tra poco sentiremo, dicono coi terroristi bisogna dialogare, bisogna quantomeno capire che cosa succede in Iraq, se pensate tutto questo, allora domandatevi se anche il Papa sta dalla parte dell'ISIS, solo perché dice attenzione a fare la guerra, attenzione. In cui per esempio Di Battista fa quel tipo di intervento, a quel punto viene fuori una reazione unanime, lui ha fatto un intervento terrorista, e ha fatto un intervento di classica tradizione radicale e non violenta, perché dice dobbiamo promuovere a interlocutori gli assassini, altrimenti quelli che saranno sceglieranno l'assassinio o il suicidio. Il terrorista non lo sconfiggi mandando più droni, ma

Ma allora, sono molto felice che mi avete chiamato per chiarire questa parte del contratto, perché... Il programma si chiama aspetti. Si può fare, noi cerchiamo sempre, esatto, quello che si può fare di buono per cambiare, per migliorare, per andare, per guardare avanti, quindi non potevamo non essere presenti. È un titolo fantastico che ricorda una scena di Frankenstein Junior, quindi lo apprezzo particolarmente, sono un vostro ascoltatore. Ma innanzitutto è una notizia che in realtà risale ad alcuni anni fa. Noi già nell'anno 2011 ci rendevamo conto che il contratto collettivo nazionale, che si applica al nostro settore, quello di turismo pubblico esercizio, per le gelaterie era poco pratico e diventava difficile renderlo specifico per le esigenze nostre e dei ragazzi che lavorano insieme a noi. E questo l'abbiamo anche scritto nel libro che abbiamo pubblicato solo 2 anni fa. Siamo stati fortunatissime, devo dire, e io temevo un pochino questa strategia, perché abbiamo incontrato i rappresentanti della Filcams, il nostro sindacato di riferimento, per proporgli un qualcosa di innovativo, di specifico, adatto alle gelaterie. E dal 1° di luglio del 2012 il nostro contratto integrativo è attivo e prevede, tra le altre cose, anche una flessibilità sul meteo, quindi sulla pioggia, come diceva lei, ma ne prevede anche alcune altre. Poi la pioggia, direi, è forse quello che ha più notizia negli ultimi giorni, ma in particolare devo dire noi forse perché è stata un'estate parecchio piovosa, quindi qualcuno avrà visto le gelaterie di Grom chiuse e avrà detto che succede? No, niente, c'è il contratto. Innanzitutto le nostre gelaterie non chiudono, anche se arriva il diluvio universale. C'è una riduzione di personale, allora, quello che succede. C'è una piccola riduzione di personale. E appunto da questo accordo fortunato con i sindacati siamo arrivati a stabilire innanzitutto i livelli e le mansioni per tutti, la formazione per gli apprendisti e poi appunto la famosa banca ore. Ecco, come funziona esattamente? Come funziona? Allora, innanzitutto l'adesione è volontaria. Tutti i nostri collaboratori, se vogliono, si applicano il contratto integrativo. E nel momento in cui l'adesione avviene, in quello stesso momento hanno un incremento salariale del 3% rispetto ai minimi previsti dal contratto nazionale. Quindi già questo è un piccolo vantaggio. Dopodiché la banca O si applica sia per esigenze personali, e quindi la singola ragazza, per lo più occupazione femminile, sono soprattutto giovani, più del 30% hanno meno di 30 anni, più del 75% hanno 30 anni, possono decidere di rimanere a casa, oppure nel caso di un meteo particolarmente infelice, il direttore del punto vendita, che cerca di organizzare l'orario nel modo migliore, sente le persone, sente se c'è qualche volontario disposto a rimanere a casa per il meteo infelice e si fa scambio con un altro momento in cui c'è un meteo migliore. Però una cosa fondamentale è che questa flessibilità porta un vantaggio importante per tutti i nostri ragazzi. Il vantaggio importante è che innanzitutto le ore caricate sulla banca ore possono essere solo ore di straordinario, e la maggiorazione dello straordinario, che in Italia sappiamo tutto è mediamente del 30%, viene pagata immediatamente, quindi la maggiorazione viene pagata subito. Nel momento in cui viene pianificata la banca ore, c'è un preavviso che da contratto è previsto essere minimo di un giorno, ma noi mediamente, visto che le situazioni meteo funzionano tra tre giorni. Noi preavvisiamo con 3 giorni in anticipo. Perché quello che tutti si domandavano era questo, cioè come si fa a programmare, visto che per definizione il meteo non è programmabile. Allora, c'è una buona... è stato anche scritto questo, abbiamo fatto un corso di meteorologia a tutti i nostri direttori di negozio, e c'è buona probabilità che il meteo funzioni sulle 72 ore, quindi fra 3 giorni possiamo dire con una buona probabilità se pioverà o meno a Torino, a Milano, a Roma, piuttosto che a New York o a Tokyo, dove abbiamo anche dei punti vendita. Lo store manager, il direttore del negozio, pianifica il lavoro e in quel momento comunica a tutte le persone che lavorano e collaborano con lui nella buona riuscita della gestione del negozio la necessità eventuale di ridurre il piano di lavoro. Le persone si dicono disponibili o meno, quindi si cercano prima dei volontari. Se i volontari non ci sono, il direttore del negozio cerca di scegliere la persona più adatta per quel momento e di rispettare il preavviso. Se il preavviso non viene rispettato, sì, e quindi se accade quello che è accaduto oggi a Genova con il diluvio universale, è un meteo particolarmente inclemente, e la persona viene contattata solo la mattina, allora la persona che non è stato dato il preavviso opportuno vengono retribuite comunque, anche se lavorate, il 20% delle ore ipotizzate per la giornata. Quindi sostanzialmente le persone che si avvalgono dell'utilizzo della banca ore hanno appunto questi vantaggi. Quindi c'è un meccanismo che di fatto poi non c'è stato opposizione da parte dei sindacati, abbiamo letto no, forse qualche dichiarazione, però il contratto è stato firmato. E quante persone aderiscono per esempio su base volontaria? Avete delle statistiche interne? Assolutamente sì, il 100% aderisce a questa condizione, perché è una condizione migliorativa. Ma appunto nell'agosto del 2012 Lucia Nile, che fa parte della Filcam, CGIL nazionale, appunto, dichiarava che era stata una trattativa estremamente positiva, con la firma di un contratto integrativo in un momento in cui difficile è il rapporto con i sindacati. Insomma, finalmente, perché ne sentiamo dire tante sulla flessibilità, che è necessaria, e sappiamo che è necessaria alle aziende, ma a volte è necessaria anche a chi lavora, perché come diceva lei, insomma, l'ora in più, l'ora in meno, la possibilità di giostrarsi qualche ora, di lavorare in un momento piuttosto che in un altro, è una cosa importante. Quindi un accordo che in questo senso, certo, dire che faccia testo per altre aziende con questi parametri non so se è possibile, perché qua c'è di mezzo il meteo, però potrebbe essere, guardi, in realtà il concetto di monte ore è una cosa che credo chi ci sta ascoltando lo capisce e rimane interessato. Che effetto le fa quando si continua a parlare invece sui giornali, a monopolizzare il dibattito sul lavoro a proposito dell'articolo 18, questo che giustamente è stato definito un totem e poi anche sicuramente una regola importante che vincola o protegge a seconda dei punti di vista. Però voi che avete aggirato e utilizzato strumenti così innovativi? Ma in realtà non abbiamo girato l'articolo 18. No, avete aggirato il dibattito. Abbiamo girato in realtà, guardi, penso che il concetto fondamentale sia la meritocrazia. Cioè bisognerebbe trovare gli strumenti utili a premiare i migliori e a non premiare le persone che invece non vanno nella stessa direzione di tutti gli altri colleghi e che quindi sostanzialmente inquinano l'atmosfera aziendale, inquinano il benessere aziendale di tutti, gli individui, dell'azienda stessa, della socialità per intero. La discussione sull'articolo 18 credo che sia più una discussione di forma che di sostanza, perché in realtà le condizioni per licenziare nei momenti di difficoltà delle aziende già ci sono. Le condizioni per licenziare per giusta causa anch'esse ci sono, è un problema che grazie a Dio noi non abbiamo, perché abbiamo straordinari rapporti con tutti i nostri collaboratori, con tutti i dipendenti all'interno di Grom, ma altrettanto credo che sia necessario andare incontro a un'esigenza di premiare il migliore. Quindi lei, insomma, è un dibattito che non la appassiona questa cosa qua dell'articolo 18. Non particolarmente. E invece voi che avete sedi in tutto il mondo, perché Tokyo ha citato lei, ma c'è anche New York, Parigi, Osaka addirittura, qual è la differenza principale tra aprire un punto vendita in Italia o all'estero, se c'è una differenza? Sì, ci sono molte differenze, ma voglio sfatare due miti comuni che sono la burocrazia e appunto la flessibilità. Parto dalla burocrazia. Spesso in Italia si dice la burocrazia è un grave problema che deve essere affrontato e bisogna snellire la burocrazia. Allora, è mia esperienza personale, di negozi all'estero non sono aperti molti, ma alcuni, e posso confermare che il negozio di Los Angeles a Malibu ha previsto molta più burocrazia che qualunque città italiana. Qual è la differenza? È che questa burocrazia non sottostà a compromessi e funziona con dei tempi normali. Quindi sono assolutamente d'accordo nel rispettare la burocrazia che prevede la richiesta di autorizzazione per inserire un insegno o meno nei centri storici, perché dobbiamo preservare la bellezza che c'è stata. Certo, quindi non tanto la regola quanto la velocità di risposta. Bisogna accelerare e rendere più efficiente la risposta. L'altro tema è la flessibilità, che è un pochino il tema di oggi. Allora, io e Guido, come come imprenditori ma anche come amici, tendiamo a dare maggiore importanza a rapporti di lungo termine, che sia tra di noi, che sia con i nostri collaboratori, e quindi il concetto di contratto a tempo indeterminato non è assolutamente sbagliato. Ci siamo trovati invece negli Stati Uniti a confrontarci con un mercato che della massima flessibilità ha fatto la sua regola principe. A New York una persona può essere assunta ed uscire dall'azienda in qualunque momento senza alcun preavviso. Anche troppo, però, per voi, cioè voi dite. Esatto, fin c'è troppo veloce della medaglia, sì. fin troppo, non c'è alcun attaccamento per la maggior parte delle persone all'attività dell'azienda e in qualche modo nessuna partecipazione a un progetto comune. Quindi bisognerebbe sempre cercare di trovare il giusto equilibrio, questo non è facile perché ovviamente sono coinvolte più parti sociali, è una storia del paese. Intanto voi un giusto equilibrio, un giusto compromesso lo avete trovato con questo contratto, insomma, abbastanza innovativo che può anche fare scuola anche in altri settori. Grazie intanto a lei, Federico Grom, grazie per essere stato con noi, buona grazie serata. Grazie mille per avermi chiamato. E buona estate. A presto. Arrivederci. Tommaso che ci chiama dalla provincia di Frosinone, buonasera. Pronto? Tommaso, buonasera. Oh sì, eccomi. Buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione, mi sente bene? Benissimo, Tommaso. Ah, no, ho un leggero ritorno. E praticamente io chiamavo perché non proprio per davanti all'Expo esporlo, ma sì, insomma un padiglione sarebbe eccezionale. Perché ad esempio il cibo italiano viene prodotto da un'azienda italiana per gli astronauti in orbita. Ah. Ad esempio Parmitano nell'ultima missione che ha effettuato sulla stazione spaziale ha sì, portato la lasagna in orbita. E non solo, certo, come fare a meno della lasagna in orbita, lo capisco. Sì, vabbè, è una curiosità. Vabbè, poi cioè, Expo sarà nutrire il pianeta, quindi il tema è l'alimentazione, per cui sicuramente questo tema in orbita sarà presente. Va bene, Alessandro. Scusi, no, poi, Tommaso. Sì. Tommaso, comunque un'altra cosa era perché, ad esempio, mettere un padiglione sullo spazio in Italia, perché poi cosa ha avuto? Ma ad esempio a novembre sono 50 sì, anni che l'Italia ha lanciato il suo primo satellite in orbita. Siamo stati il terzo paese nel mondo a farlo. Quindi potrebbe essere anche questo un tema simbolo sì, per l'Italia Expo. Va bene, grazie Tommaso. Almeno del futuro. Ok, arrivederci. Buona serata. Alessandro da Belluno. Buongiorno, dottor Ritti. Ecco, due spunti. Sì. Volevo fare riferimento anch'io al monologo del vignettista Vauro, sì, che arroga il diritto a pseudo giornalista di eventi internazionali che non conosco più. No, guardi, pseudo giornalista, togliamo pure questo pseudo. L'ha sentito, è stato uno dei pochi che era a Baghdad prima della guerra in Iraq, è stato in Afghanistan, quindi è più giornalista lui di molti di noi, quindi questo tanti altri, tanto per sì, dire però, sì. Poi su quello che dice giustamente ognuno ha le sue opinioni, sia chiaro. Sì, certo, però ecco, non dar conto di quello che è la realtà in cui sì, è vero che anche da parte di israeliana sono stati fatti tanti errori, ma le tregue, no, vengono sempre spezzate, no, da Hamas, che col suo integralismo, no, non potrà mai venire a patti con Israele, no, visto che vogliono identificare la propria diciamo società con la propria cultura oltranzista. Questo è Sharon addirittura 9 anni fa, con grosso sacrificio, visto diciamo i suoi trascorsi militari, no, aveva concesso tutta la regione di Gaza, sì, sperando che questo bastasse, no, a calmare definitivamente. E invece non è bastato. No? E non c'è riuscito, tanto che addirittura Hamas stessa è in conflitto, no, con Cisgiordania, quindi diciamo che fare diciamo un tipo di comunicazione del genere è errato assolutamente. Ecco, comunque conosciamo il personaggio e ormai ce ne sentono di tutti i colori. Ultima cosa, diciamo per smorzare un po' i toni. Ed essere caduta la linea, Alessandro, mi dispiace. Andiamo con non ce l'abbiamo più, no, Alessandro no, non si sente più. Andiamo con Carlo da Milano, buonasera. Buonasera. Dunque, io volevo appunto esprimere un punto di vista. Quale prodotto sarebbe da esporre alla prossima Expo sì, in 2015? Sì. Io ritengo che non ci siano dubbi. Il prodotto che ci ha reso famosi nel mondo... Ho già paura, perché lei è partito così, lento ma sì, deciso. Sentiamo? Sì. Il prodotto? Il prodotto è la mafia, la Eccolo, la camorra, e mettiamoci anche non mettiamoci altro, mi pare già abbastanza, no. Carlo. Pronto. Sì. Ecco, volevo dire, questo prodotto, questi prodotti, che riconosciamolo, danno dei sono già abbastanza famosi da soli, però, senza che li portiamo ad Expo, voglio dire. No, perché ci può essere quello stato che, chi lo sa, per stupidità o no, potrebbe anche offrire una grossa cifra, perché ricordiamoci. Invece lei sull'Italia non scommetterebbe neanche una cicca, niente. No, ma guardi, no, perché guardi che l'andrangheta, la camorra e la massoneria, che mi dimenticavo, danno dei profitti straordinariamente alti, senza pari. Carlo, ma io devo stare qui a parlare con lei? Cioè, di cosa stiamo parlando? Della mafia che dà profitti straordinari? Perché lei ha dei dubbi che la mafia... No, ho capito, ma cosa dobbiamo fare allora? Diventiamo tutti mafiosi per questo? Esponiamo questo prodotto al miglior offerente, diamoglieli tutti. Va bene, Carlo, guardi, la facciamo partecipare anche lei al gioco, anche se ha detto una castroneria, però va bene, va benissimo. Ilie da Torino, segniamo tutto redazione, perché poi dobbiamo scegliere a nostro giudizio insindacabile chi vince. E dobbiamo dire, dobbiamo dirlo poi. Ilie, buonasera. Sì, buonasera, salve. Senta, io porterei all'Expo un barcone degli africani, ma appena arrivati, così magari sperando che l'Europa si rende conto di quello che succede e farà la sua parte, perché fino adesso l'Italia è da sola in questa cosa qua, quindi porterei un barcone di africani. Va bene, anche questa è una risposta, anche questa è ovviamente provocatoria, questa diciamo provocatoria non tanto quanto la mafia, ma insomma abbastanza, e vediamo come procediamo a tentoni. Mario da Verona, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera, no, ma il mio intervento era per l'inizio di trasmissione, dove lei mi sembra aveva fatto un'introduzione collegando l'intervento di Papa Francesco a quello che aveva detto l'onorevole, chiamiamolo così, dei 5 Stelle. Sì. Ecco, in realtà mi sembra siano due cose del tutto diverse, perché mentre Papa Francesco, secondo quella che fu, a mio modestissimo avviso, era la dottrina anche tradizionale della Chiesa, in qualche misura giustificava la guerra di fronte a un'aggressione ingiusta, anche se, mentre 5 Stelle considerava il terrorismo una risposta adeguata, ma probabilmente riferendosi ai fatti di Gaza, mentre il Papa parlava verosimilmente della vicenda irachena, della fuga di profughi cristiani, non solo cristiani, ecco, quindi sono due cose tutto diverse, mi pare che... La sentiamo un po' male, Mario. No, in realtà Di Battista parlava dell'Iraq, parlava anche dell'Iraq sicuramente, e anche il Papa parlava dell'Iraq. Poi è un parallelismo sicuramente un po' azzardato, quello che ho fatto io, però parlavano tutte e due della stessa cosa, cioè cosa fare di fronte all'avanzata dell'ISIS. E quindi ha capito, Mario? Battista cosa si riferisce con l'ISIS, perché l'ISIS non era occupata da nessuno, le zone sunnite dell'Iraq hanno preso in mano loro il potere cacciando via l'esercito regolare iracheno, mi sembra, quindi no, che però non era un esercito occupante, era l'esercito di quel paese, un esercito di un paese dove è stato messo su un governo, secondo tutti un governo definito fantoccio, però non è un governo che è stato in grado, diciamo, di essere realmente democratico, di essere rappresentativo, il governo di una minoranza di sciiti in mezzo a tanti sunniti. Vabbè, ma questo poi apre alle interpretazioni su quello che succede in Iraq. Fermiamoci qua, Mario. Adesso vi vogliamo invece dare una buona notizia, questa sì, perché parliamo di una eccellenza che viene dalla Calabria per una volta. Perché andare a scomodare una canzone di che anno, Andrea Piana? Che è un'idea tua questa qua? 70, anni 70, cioè una canzone che ha 35 anni. Perché stiamo parlando della scuola di Cosenza che ha vinto i mondiali di robotica e ne parliamo con il docente Remo Scavello. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei intanto per aver vinto questo premio, per quello che fate in questa scuola, adesso ce lo racconterà, docente dell'ITIS Monaco di Cosenza. Intanto è già curioso che ci siano i mondiali della robotica, cosa sono scuole nel mondo, questo premio lo avete ritirato in Brasile? Sì, la rete, l'organizzazione si chiama RoboCup e sì, organizza ogni anno una manifestazione internazionale dove partecipano praticamente tutte le scuole del mondo, insomma, che hanno precedentemente a loro volta vinto le eliminazioni nazionali. Nazionale. Quindi voi avevate vinto le eliminazioni nazionali. Esatto, esatto. Noi abbiamo vinto a Pisa, Pontedera ad aprile la fase nazionale. Grandissimo. Quante sono le scuole che hanno partecipato in Italia intanto? In Italia praticamente tutte le regioni, quasi tutte del centro-nord, della verità, del sud eravamo solo noi. Eravate la Cenerentola e avete vinto, pensi un po'. Cioè, guardi, vincere con su istituti del nord titolati, appartenenti a zone industrializzate, ovviamente molto più strutturalmente, diciamo, ecco, organizzate della nostra, della Calabria, di Cosenza, capisci che piacere è stato per noi, no? E penso il piacere ancora di più una volta che siete andati in Brasile e avete vinto contro il mondo praticamente. Sì, c'è da dire che la manifestazione che si tiene, sì, in Brasile vuole, ecco, fare il punto diciamo ogni anno di come la robotica nelle scuole di ogni livello e di ogni età. Infatti ci sono le competizioni per le scuole medie, le scuole superiori a cui apparteniamo noi, le università, ci sono tante categorie. Ecco, la cosa migliore è pensare a delle Olimpiadi di robotica, sì, più che, sì, ai campionati del mondo dove ci sono due squadre che fanno la finale. In effetti è un'Olimpiada dove ci sono tante categorie, tanti livelli di età. Ecco, noi abbiamo vinto nella nostra categoria, nel livello delle scuole medie superiori. Però se lei pensa che, ecco, questo non voglio ridurre, se lei pensa che diciamo, sì, prima di noi e dopo di noi sono esibiti Giappone, Stati Uniti, Corea, Hong Kong. Insomma, un certo orgoglio, paesi così, paesi all'avanguardia, si dice che l'Italia non ce la fa, cioè, figuriamoci la Calabria, avete vinto davanti, esatto, agli Stati Uniti e al Giappone. Ma vabbè, che cos'è la robotica? Lo capiamo, insomma, è diciamo, la realizzazione di robot, insomma, in sostanza, no? La meccanizzazione di vari processi. Ma com'è che in una scuola, intanto il vostro è un istituto tecnico? Allora, guardi, noi siamo un istituto tecnico innanzitutto, quindi, sì, questo ci pone in una condizione che il, tra virgolette, background per noi è ideale, no? Perché fare robotica significa fare informatica, certamente, ma anche elettronica, meccanica. Cioè, non per voi è la base, insomma, l'elettronica, esatto, la meccanica. Esatto, però avete sviluppato un qualcosa di particolare, uno studio particolare sulla robotica. Come nasce questo progetto? Noi abbiamo sviluppato un'esibizione particolare, abbiamo, sì, costruito un robot umanoide giardiniere. Perché questo, abbiamo tutta la suspense sin qua, perché avete vinto il premio per questo, per un giardiniere elettronico, sì, sì, meccanico. Un giardiniere che si muove in un giardino, irriga dei girasoli, uno alla volta, ce ne sono quattro, che si sollevano appena irrigati e poi tutti insieme seguono un sole, anch'esso robotico, che simula alba, mezzogiorno, tramonto, per cui questi girasoli. Però scusi, il sole robotico, ma se lo metteste all'aria aperta seguirebbe il sole vero o no? No, non sarebbe difficile farlo. Ecco, lei mi sta dando un'idea magari per il prossimo per anno, la prossima Olimpiade. Quindi avete inventato, fatto un prototipo di esatto, di che cosa esattamente? Perché non abbiamo capito, un giardiniere. Guardi, le tecnologie che ci sono dentro in questa realizzazione, sì, sono tecnologie comuni, insomma, sono schede commerciali con dei dispositivi commerciali. Si tratta di avere una buona idea e di realizzare qualcosa di abbastanza complesso per meritare, ecco, il premio da parte dei giudici. Tenga presente che i giudici erano Giappone, Stati Uniti e Canada, i tre giudici che ci hanno votato. Sì. Quindi, no, ma il meccanismo del giardiniere ce lo rispieghi un attimo, perché allora, ci siamo persi. È un umanoide, molto. Noi abbiamo costruito un umanoide, diciamo vestito da giardiniere, che si muove sul palcoscenico irrigando uno alla volta quattro girasoli, sì, robotici. Ogni volta che irriga un girasolo, il girasolo si solleva, alla fine il giardiniere e i quattro girasoli danzano, tra virgolette, muovendosi in corrispondenza di un sole robotico che va a destra, centro, sinistra, come se non bastasse, abbiamo realizzato un video con un cartone animato. Sì, ma c'è anche la musica che c'entra in questa cosa, che si attiva con la musica. Come se non bastasse, tutto questo è sincronizzato con l'esecuzione delle quattro stagioni di Vivaldi fatte sul palcoscenico da due dei nostri ragazzi, per cui il tutto è sincronizzato con la musica. Quindi pensi quanta difficoltà, diciamo, di realizzazione, soprattutto nella sincronizzazione dei movimenti tra giardiniere, fiori, sole, sì, che si muovono. Ecco, ma adesso, a parte, diciamo, la musica suonata, al di là di questa esibizione, ma i ragazzi coinvolti in questo progetto, avete vinto un premio, insomma un riconoscimento, evidentemente ci sarà nell'idea qualche cosa che ha stuzzicato l'interesse, la fantasia di chi ha, della commissione, insomma, tutto questo porterà a qualcosa? Questi ragazzi avranno la possibilità di, non dico trovare un lavoro su questa cosa qua, ma insomma, a cosa serve, ragazzi, sta roba? Tanto guardi, per sintetizzare, anzitutto a dare ai ragazzi l'abitudine a lavorare in un, come voglio dire, sì, in una visione progettuale del loro lavoro. Io spesso dico che la scuola, soprattutto la scuola tecnica, è come una squadra di pallone che si allena ma non gioca la partita. Non so se fare queste cose è come giocare una partita. Giocare la partita, perché tu impari un po' di elettronica, un po' di meccanica, un po' di informatica, metti tutto insieme in una realizzazione che deve essere fatta in un certo momento, con certe modalità, sì, quindi abito i giovani a rispettare i tempi, a rispettare le modalità. E ci sono delle industrie nella zona di Cosenza che potrebbero essere interessate a questi ragazzi che hanno queste capacità, questo, o no? Mi dà un'altra domanda, Domanda di riservo, ho capito, abbiamo toccato il nervo scoperto. Quello che per noi è molto buono è la vicina università, l'unica che è un'università, sì, molto quotata, diciamo, dove noi cerchiamo di realizzare delle collaborazioni e dove orientiamo i nostri giovani a continuare queste cose. A parte questo, come industria siamo messi un po' male. Comunque ho visto che avete anche degli sponsor che vi hanno sostenuti, la Confindustria locale, tante cose. Esatto, la Confindustria. Senza la Confindustria non sarebbe stato possibile, perché lei tocca adesso un altro nervo scoperto. E già due, le risorse nella scuola, purtroppo. Quindi, diciamo, se non ci fossero stati questi sponsor, sì, però nel vostro caso c'erano, noi ci teniamo la parte, certo, buona della, in questo, certo, caso a Cosenza li avete avuti, a Litis Monaco avete avuto un po' di sostegno, qualcuno che ci ha creduto, ne abbiamo fatto buon uso, soprattutto perché è stata un'organizzazione, lei capisce, molto impegnativa, perché mandare 9 ragazzi in Brasile con tutto stupo po' di attrezzature, insomma, è stata anche una spesa, un piccolo investimento. È un'organizzazione, però adesso sappiamo che ci sono 9 ragazzi in più che hanno fatto un'esperienza importante, straordinaria, stanno imparando una professione e insomma sicuramente questa cosa sarà servita a loro, a cui facciamo i complimenti, naturalmente li facciamo anche a lei. Che prof che ha tirato le fila, c'è sempre un prof che tira le fila, sì, di queste cose. C'è anche una dirigenza, c'è un'organizzazione dietro che senza la quale non sarebbe possibile organizzare, a parte l'aspetto tecnico, proprio, sì, dal punto di vista organizzativo, no? Fare questa cosa qui è, riassicuro che è molto impegnativo. Litis Monaco di Cosenza, grazie al prof, grazie a lei, Remo Scavello. Grazie a lei e ai suoi rispettatori per avermi ascoltato. Complimenti, a presto. Grazie. Arrivederci e buona estate. Andiamo con Fiorella che ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera. Io volevo intervenire, sì, per l'orsa del Trentino. Sì. Volevo dire solo questo, che questa orsa è 10 anni che sta tra le montagne del Trentino ed è stata immessa con un programma costosissimo proveniente dalla Jugoslavia. Per cui per i non animalisti volevo dire che c'è anche un costo di questa immissione nelle montagne del Trentino e poi che questa orsa non aveva mai dato segni precedentemente di aggressività, sì, né verso persone, né verso animali, né verso fattorie, per cui la probabile reazione è stata determinata dalla presenza dei cuccioli, che mi pare che ogni specie vivente, compreso l'uomo, avrebbe una reazione di questo tipo, insomma. E quindi ritengo, almeno è una mia opinione personalissima, che questa persona sia stata molto imprudente e che abbia voluto magari vedere più da vicino i cuccioli. Questo non lo sappiamo, questo non lo sappiamo, questo non facciamo non lo sappiamo. Il processo alle intenzioni e va bene, comunque grazie Fiorella. Intanto al 349-238-6666 un ascoltatore Matteo ci scrive che lui porterebbe davanti a Expo tarallucci e vino, perché tanto in Italia finisce tutto così. Poi che altro? No, gli sms non ci sono. Ah, dobbiamo dire anche che ha vinto Lorenzo Acerno, è stato il 3000esimo a mettere mi piace, ecco, applauso, quindi Lorenzo grazie, il 3000esimo like sulla pagina Facebook si può fare che vince questa sera i biglietti, non so da dove sia questo ascoltatore, lo contattiamo, a seconda se è più vicino a Roma o al nord, vince i biglietti per la mostra di Varese o quelli di Warhol appunto a Roma. Andiamo sempre con i vostri interventi, ascoltatori, e abbiamo Armanno che ci chiama dalla provincia di Modena, anche se teniamo d'occhio i titoli della 7 perché tra poco sentiamo i titoli. Armanno? Grazie, parlo da Carpi, provincia di Modena, bravissimo, capitale. Fantastico. Del tessile abbigliamento. Ah, quindi lei davanti a Expo porterebbe? Porterei senz'altro una Ferrari, ecco. una testa rossa. Benissimo, benissimo. Meglio l'ultimo modello, la 458, piace tanto ai giapponesi. Ah, e l'importante è che piace ai giapponesi che la comprino. Centrale, è occupazione questa, tendiamoci bene. Certo. E questa, e poi con i soldini della Ferrari hanno completamente rinnovato la Maserati, che piace ancora di più perché la trovano comodo. Fantastico. Comoda. Invece la Ferrari è più... troppo... Ferrari come la Lamborghini, adesso non volevo fare il nome perché sono concorrenti, sì. Sono macchine estreme, cioè altamente, certo, è vero. Invece la Maserati è una macchina più comoda sicuramente, certo. Però portiamo la Ferrari all'Expo, Ferrari. Oh, scusi, non vorrei parlare molto, parlo molto forte perché sono anche raffreddato. No, ma la sentiamo abbastanza bene, Armanno. Voleva dire qualcos'altro? Ma certo, sì, che voglio dire qualcosa. Due, se mi consente, due cose. Sì? Allora, è proprio vero quel che dice Berlusconi, i comunisti sono rimasti a Cuba, in Cina, in Italia. Perché sentito Lauro più comunista. Vauro, con la sì. B come Venezia. Sì. Vauro, sì, l'ho sempre seguito anche nella sua trasmissione. No, dico, ma non è mica possibile, lui ha parlato l'invasione dell'Iraq, le nefandezze in Afghanistan che le hanno fatte tutte, poi la striscia di Gaza, ci mancherebbe. Ma scusate bene, ma le Torri Gemelle, per piacere, l'avete mai sentito nominare da gente come Vauro? Ma le Torri Gemelle, ragazzi, ma è stata un'aggressione a dei civili in momenti di pace in cui tutto il mondo si è ha pianto. Oriana Fallaci ha visto le torri crollare, addirittura ha scritto 3 libri, poi ha detto Ermanno, però le torri gemelle, poi dopo c'è stato le torri gemelle, è stato l'inizio, appunto, gli Bin Laden era un alleato degli americani prima delle torri gemelle, ricordiamoci anche questo, è caduto Armanno su questa notizia. Sono qui, non ho capito la sua frase. Bin Laden è stato un alleato degli americani prima delle Torri Gemelle, poi ce lo siamo trovati contro. Bin Laden era, ecco qui un giochino di parole, a parte che sono 23 fratelli, Bin Laden fino a quando in Afghanistan gli ultimi hanno comprato le cave di marmo a Carrara, che lui li combatteva, dopo loro è logico che sono diventati nemici, poi dopo non è stato Bin Laden, ma è stato il mondo islamico. E poi a questo punto cosa devono fare gli americani? Ma scherziamo, si sono vendicati, qualcheduno naturalmente da sinistra ha detto sono andati a cercare il petrolio, ma il petrolio si ricompra in qualunque mercato, si sono voluti beh, insomma il petrolio vendicare. Si ricompra pagando oppure diciamo inserendosi a monte della produzione, va bene Ermanno, però certo il discorso delle Torri Gemelle lei ha ragione, Pronto, Ermanno? Li vuole uccidere tutti. Ecco, si ricorda ieri sera Salvini ha detto questo signore che per lui la Lega e Salvini in testa li vorrebbe uccidere tutti. Sì. Anche qui non ci sto. È gente questa qui che va bene, ha detto lei, ognuno deve dire il proprio parere. Sì. Ma li vuole uccidere tutti la Lega, questo non l'ha mai detto in testa Salvini. Perché dobbiamo far presente agli italiani che parlano di tutto, meno di io sono stato al mare un mese e mezzo. Beato lei. Parlava del nulla, creda. So. Va bene, siamo in vacanza, ma davanti a quel che succede, ma scusate, 800, 1500 arrivi di sbarchi tutti i giorni, ma dove la mettiamo questa gente? Io ho nella prima guerra mondiale, io ho un caduto, mio nonno lo devono ancora trovare per difendere il patrio suol. E quindi questa gente qui... In che senso suo nonno lo devono ancora trovare? È caduto nella prima guerra mondiale fra le cannonate in mezzo alla neve. E cosa faceva? Difendeva il patrio suol. Adesso tutti in Italia, state bene, vi veniamo a prendere. Vi ricordate quando c'era la festa dell'unità, la striscia che diceva l'Africa agli africani? Lei se lo ricorda, eh? No. Vabbè, non importa, Ermanno, no, se lo ricordano gli ascoltatori, vada. Dicevo così, adesso ce l'hanno tutta l'Africa. Sì. Anche Andreotti disse, chiamalo terzo mondo, hanno tutte le ricchezze di questo mondo. L'ha detto un certo Giulio. Dunque, a questo punto questi signori qui si devono mettere a lavorare seriamente e indossare anche il preservativo, che gli farebbe tanto bene. Per limitare le nascite, lei dice. Per limitare le nascite, benissimo, vedo che lei mi ha capito. Ermanno, lei va forte, abbiamo capito tutto, mi sembra che lei taglia abbastanza la realtà con l'accetta, però ci sta anche quello. Ha detto delle cose anche giuste, ha parlato di suo nonno, e va bene. Andiamo, cosa abbiamo? I titoli? Ce l'abbiamo del TG1, TG1. Due caccia tornado si scontrano sui cieli delle Marche, dispersi quattro militari, si sono lanciati con i seggiolini. Governo al lavoro su economia e riforme. Renzi, nessun piano segreto. Cominciamo dalla giustizia civile, che civile non è. Iraq, il Parlamento discute sulle armi ai curdi mentre avanza l'offensiva contro l'ISIS. Domani il premier sarà a Baghdad. Incidente stradale in Argentina. Muoiono tre parenti di Papa Francesco che dice sono addolorato, pregate con me. In Calabria caccia all'uomo che ha ucciso la moglie a colpi di pistola, la sua auto ritrovata con le chiavi inserite. Ricognizione eterologa, dopo il sì del Tribunale di Bologna a due coppie, sono 400 le richieste solo nella città emiliana. Calcio, contro gli striscioni offensivi, diffide, multe, chiusura delle curve solo nei casi più gravi. Comincia l'era Conte, il nuovo CT della Nazionale risponde alle polemiche, annuncia una squadra di uomini veri. Massimiliano da Roma. Allora, buonasera. Mi sente? Sì, forte e chiaro. Allora, abbiamo pochi secondi, purtroppo, poi dobbiamo chiudere. Sì. Cosa porterei all'Expo? La promessa che facciamo all'Europa di lasciare in pace gli europei. Perché noi, veramente, lei cerca l'ironia nell'ultima chiamata, non c'è ironia. Noi dobbiamo dire che le cose belle di questo paese sono state fatte prima del 1948. Quindi la Repubblica Italiana e gli italiani non hanno nulla a che fare con la bellezza di questo paese. Noi l'abbiamo distrutto. Massimiliano, con questo io direi che dobbiamo salutarci qua, non tanto per la quota di amarezza che lei ci vuole portare per forza in chiusura, quanto perché siamo in chiusura. Vincono al giudizio insindacabile della redazione, si può fare tutta. Gianni da Milano, che propone Rocco Siffredi, che è pur sempre un simbolo dell'italianità sicuramente, e Sandro da Ferrara, che parlava della plastica e del PC. Grazie a tutti, ci sentiamo domani, buona serata, ciao, a domani. Ciao.